spiaggia, con la neve e con il vento, non perdete questo evento. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E non dite che non ve lo dico da tanto, tanto, tanto tempo, ve lo dico col titolo che scelsi già molto tempo fa per la mia trasmissione, non ci sono più le mezze stagioni. Io adesso mi chiedo, chi potrà restituirci la primavera? Almeno al centro-nord, il sud un pochino più la goduta, ma pensate che tra un mese esatto praticamente è estate. E la primavera chi l'ha vista? Cioè noi passiamo direttamente da un autunno-inverno all'estate, se l'estate ci sarà. E quindi ecco perché ogni volta si riconferma che non ci sono più le mezze stagioni, mai titolo fu più azzeccato per una trasmissione. Quindi io voglio capire chi ci risarcirà per questa mancanza di primavera ormai divenuta insopportabile. Ma insopportabili sono in realtà tante altre cose che sono successe anche questa settimana in Italia e nel mondo, e fra pochissimo vi racconto proprio in sintesi alcune notizie, quelle in particolare sulle quali potreste liberamente esprimere le vostre opinioni. Sapete che naturalmente tutte le notizie sono a vostra disposizione, poi ce ne sono chiaramente alcune che fanno discutere, riflettere, argomentare un po' di più, ma il numero verde è sempre a vostra disposizione, che è l'800 24 0024. Ripeto, 800 24 0024, un numero verde, quindi sa va san dire gratuito, ma soprattutto ecologico, perché come vi dico sempre, evitate di disperdere energie, pensieri, tempo altrove, li convogliate invece tutti qui. Ah, non ci sono più le mezze stagioni, siamo insieme come sempre fino alle 15. Tra poco vi presenterò l'opinionista estemporaneo, ma come vi dicevo, giusto un riepilogo molto molto sommario delle notizie di questi giorni. Naturalmente, come non citare la morte di Giulio Andreotti a 94 anni, fu 7 volte presidente del Consiglio, 22 volte ministro, qualcuno ha titolato il potere per il potere, ma sicuramente se n'è andato un gran pezzo di storia italiana, e con questo pezzo di storia italiana anche moltissime ombre, lati oscuri, misteri, questo è innegabile. Intanto il governo attuale ha ultimato la squadra con l'assegnazione delle presidenze delle commissioni, con tante polemiche, soprattutto su Nitto Palma alla giustizia, che è passato Nitto Palma di PDL senza voto del PD, e però col sì dei Montiani. Resta però alta la tensione nella maggioranza, soprattutto poi dopo questa sentenza di conferma in appello della condanna di Berlusconi per i diritti TV Mediaset a 4 anni di reclusione, 3 però sono coperti dall'indulto, e 5 anni di interdizione dei pubblici uffici. Poi naturalmente ci sarà la Cassazione, però intanto oggi il PDL manifesta a Brescia sulla questione giustizia. Il PDL quindi torna in piazza, e vedevo poco fa sui quotidiani online, per esempio il Corriere, Alfano dice: tutti a Brescia per Silvio, però insorge il PD perché dice grave, come il vice premier che dice di andare tutti in piazza. Insomma, il governo è una situazione un po' peculiare. E poi c'è Grillo che sferza i suoi, dice vaffa ai soldi, ma vaffa anche alle commissioni, annuncia la blacklist anticresta, sapete queste polemiche sulla diaria presa dai suoi del Movimento 5 Stelle. Poi attacca Berlusconi, dice il suo posto è in carcere. Nel frattempo, in tutto questo bailame, c'è oggi l'assemblea tanto attesa del PD, perché bisognerà andare a un congresso ed eleggere il successore di Bersani. Nel frattempo, successore molto temporaneo di Bersani, sarà eletto Epifani, lo chiamano il segretario traghettatore. Siamo verso l'estate, quindi va un po' di moda i traghetti, sarà un segretario balneare. Ecco, poi intanto Letta cosa fa? Decide che in tutta questa confusione porta il governo in ritiro. Il governo si ritira 24 ore in un'abbazia, nell'abbazia di Spineto. Saccomanni nel frattempo però assicura il ministro dell'economia: guardate, non rischiamo il default, questo ce lo scriviamo. Poi naturalmente ci sono le questioni dell'IMU, della cassa integrazione. Il governo sta ancora esplorando le vie per trovare le coperture. Femminicidi, naturalmente, anche questa settimana, anche una ragazza colpita dall'acido da 2 uomini incappucciati. Alfano dice: violenza contro le donne, ne parleremo nel prossimo CDM. C'è già stato il CDM da quando l'ha detto, però si sono occupati di IMO, di altre cose. Naturalmente la tragedia di Genova nel porto con 9 morti, e questa storia orribile, incredibile, di Cleveland nell'Ohio, di questo uomo che ha rapito 10 anni fa 3 ragazzine e ne ha fatto delle schiave, violentandole tutti i giorni, picchiandole, umiliandole, 10 anni di vita in questo modo. Adesso rischia la pena di morte. Che ne pensate? Un po' di, diciamo, di pensieri neri e vogliamo dire cattivi, vogliamo dire politicamente scorretti, questa cosa li fa emergere un po' così anche la gente comune, anche come me. E poi la morte di Rossella Falca e Ottavio Missoni, naturalmente, che vanno ricordati. Direi di fermarmi qui per il momento sull'elenco lunghissimo, seppure molto sintetico, e passare al nostro rito e dirci, a parte le questioni in meteo, perché anche questa settimana si dimostra che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Carlo d'Inghilterra, un eterno principe, quello che non sarà mai re, quello che invecchierà e andrà in ospizio senza mai essere diventato avere la corona sulla testa. E attenzione, invece, Elisabetta, che sembrava almeno fino ai 152 anni voler assicurarsi il posto di regina, pare che abbia fatto un'investitura quasi ufficiale in questi giorni, cioè ha deciso che a novembre, quando ci saranno la riunione di tutti i capi di Stato e di governo dei paesi che sono parte del Commonwealth, tutti questi paesi sono comunque sotto l'egida della Gran Bretagna, non andrà lei, non è mai successo dal 1973, ma manderà Carlo, e questo, secondo gli inglesi, è un'investitura ufficiale. Sappiatelo, quindi, il povero Carlo, prima del figlio William, farà almeno qualche giorno, diciamo, di regno. E poi, dicevamo, ci conferma invece che le cose sono sempre così, che le mezze stagioni in realtà ci sono. Abbiamo detto di una donna che è stata uccisa in Calabria dopo 30 anni, dal marito naturalmente, dopo 30 anni di botte, di violenze, di umiliazioni di ogni tipo. 6 figli in Calabria, però hanno assicurato gli inquirenti che questa tragedia è maturata non in un contesto sociale familiare degradato, tutt'altro, no? Quindi non pensiamo che ci siano delle zone geografiche o estrazioni sociali legate a questo terribile fenomeno del femminicidio, no, è molto trasversale. Telefono Rosa dice: ci vuole l'applicazione della legge a 360 gradi, processi veloci e pena scontata fino alla fine, perché se escono prima questi assassini è chiaro che è un esempio per gli altri. Allora cosa succede? Proprio questa settimana un uomo che strangolò tempo fa la sua compagna ed era in carcere, bene, è libero perché, per decorrenza dei termini, praticamente è stato scarcerato perché il tempo per fissare la prima udienza del processo è scaduto e lui è fuori. Aveva strangolato la compagna, aveva anche confessato dopo che era stato inquisito perché aveva simulato questo incendio, poi l'aveva strangolata, poi allora aveva portato via il figlioletto di lei per far vedere che lui l'aveva salvato e voleva salvare anche lei, dopo poi si è scoperto che invece l'aveva strangolata. Bene, libero, anche se la ministra della giustizia Cancellieri manda gli ispettori lì a Reggio Emilia, dove è successo, a vedere perché quest'uomo è libero. Poi è stato fermato il cinquantenne che avrebbe ucciso la ragazza coltellata a Roma, vicino ad Ostia, e si scopre che era stato condannato per omicidio volontario 18 anni e poi per un altro omicidio colposo. Come mai era così in circolazione, così libero e felice, ha ammazzato questa ragazza di 31 anni? Sappiate, vi dico quest'ultima cosa prima di presentarvi l'opinionista estemporaneo, che nel moto mondiale Barbera, questo pilota, ha aggredito la fidanzata mentre erano in vacanza per qualche giorno, l'ha riempita di chimosi, di ematomi, eccetera eccetera. Bene, sarà processato in Spagna entro 15 giorni. Non so se qualcuno ricorda che Zapatero, nella sua prima campagna elettorale, disse che questo era il primo punto del suo programma e lo mantenne: prevenzione contro la violenza sulle donne. Lo fece. In Spagna sono cambiate molte cose e Barbera, che comunque è un personaggio noto, verrà processato entro 15 giorni e rischia 9 mesi di carcere per le botte e poi anche provvedimenti per quanto riguarda la sua carriera. Direi a questo punto, signore e signori, ascoltatrici e ascoltatori, mentre vi ricordo il numero verde 800 24 0024, di presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi. Carissimo Fabrizio D'Esposito. Buonasera, anzi buongiorno. Buongiorno, perché tu sei a Roma, sei originario Roma, del sud, sì. Quindi per te è già buonasera. Lascia che, lo dico ogni tanto, per noi di Milano, che c'è uno spicchio di sole, sia ancora buongiorno. Me lo concedi questo? Dipende dalle mezze stagioni. Ecco. Dalle mezze stagioni. Oggi sembra bel tempo, che potrebbe invece poi degenerare verso sera. Poi ho sentito che ci saranno altri giorni di pioggia la prossima settimana, quindi insomma una primavera perfetta da ogni punto di vista. E, caro Fabrizio, tu, mi chiedo questa cosa, vedresti Renzi, con tutto rispetto per Matteo Renzi, in un film erotico? No, perché Renzi dà l'idea di un potere asessuato, nel senso che rispetto agli anni del berlusconismo, dove la parola sesso si è associata al potere molto più dei soldi, almeno nell'immaginario collettivo, Renzi mi dà l'idea di un ragazzo, se posso dirlo, assatanato di potere più che di sesso, che usa la sua faccia da giovane, da bravo sindaco di un paese, di una città importante come Firenze, e che da questo punto di vista non mi dà l'idea del sesso, non mi dà l'idea, forse bisognerebbe chiederlo. Bravo, no, sai perché te lo dico, infatti, Fabrizio D'Esposito? Perché Tinto Brass proprio ieri ha detto al quotidiano, ma un quotidiano di Firenze, che non sono quelli più noti, che qui Firenze, ha detto che lui per un suo prossimo film lo vedrebbe da morire in un suo film, lo vorrebbe come protagonista. Quindi mi chiedevo se tu. Un Renzi Stallone, diciamo, cioè, sì. Tipo Rocky Sylvester Stallone, avremmo Matteo Stallone. Matteo. Battute a parte, no, forse nel mio giudizio influisce troppo la conoscenza della politica in questi mesi, in questi anni, viverla qui nel quadrilatero dei palazzi, però rispetto a tutto quello che si sente in giro nei corridoi del transatlantico, cioè a Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, oppure quelli che sono i discorsi che si fanno fuori nelle redazioni, Renzi quasi mai, anzi si può dire che molte sue ammiratrici vorrebbero approfondire questo discorso, ma non ci riescono proprio per il suo rifiuto, così mi dicono. Ma intanto in quello materia. Un uomo integerrimo, corretto, sposato, fedele, no? Ai figli. Rappresenta figli, un'immagine molto democristiana 2.0 del Partito Democristiano, del Partito Democratico, scusami, ho fatto un lapsus. Che poi in realtà forse chi meno ne parla più lo fa. Ma comunque, al di là di questo, era naturalmente l'incipit della cosa iniziale per cominciare a mitragliare Fabrizio D'Esposito, giornalista del Fatto Quotidiano, su moltissime notizie, molte domande che ho in testa, tutto qua, dico spesso il sabato, c'ho un po' di mal di testa perché è tutto rintuzzato qui nella testa. Tra pochissimo avremo la prima ascoltatrice, Vittoria da Milano, all'800 24 00 24, ma mentre Pietro Lacorte alla parte tecnica mi ricorda che adesso abbiamo la pausa per chi sta viaggiando, Fabrizio, vorrei che tu pensassi, ci soffermeremo poco su questa cosa, ma che cosa ne pensi, e me lo dici dopo, di questa storia di Cleveland, a parte i femminicidi in Italia, quindi quanto gli uomini sono capaci di essere aguzzini e con quale frequenza, anche in tempi di pace, in tempi di guerra non ne parliamo, in giro per il mondo che cosa succede nei paesi integralisti eccetera, ma anche in un paese civile come l'Italia e anche negli Stati Uniti a Cleveland, come è stato possibile questa cosa, e quando si dice che Ariel Castro, anche se non ha ammazzato in realtà nessuno, anche se ha provocato tanti aborti, no, dice il giudice, voglio chiedere per lui la pena di morte. Vorrei sapere a te che pensieri vengono. Poi ci sono questioni di attimi per aggiornare chi sta viaggiando. Roberta Giordano sempre con voi sino più o meno alle 15, opinionista estemporaneo di oggi è Fabrizio D'Esposito, giornalista del Fatto Quotidiano. Quindi ti chiedevo, staremo poco, ma giusto volevo capire insomma che cosa ti suscita questa cosa di Cleveland. Un pensiero forse molto corrente, banale se vuoi, ma è quello che la realtà tante volte supera l'orrore che noi possiamo soltanto immaginare oppure leggere nei gialli, nei thriller che abbondano nelle nostre librerie. Il punto vero è, non so se è una provocazione, il punto vero è che rispetto a una storia del genere io sono rimasto colpito da due particolari. Il primo è che la vicenda di Cleveland ha portato di nuovo alla ribalta il numero delle persone scomparse ogni giorno nel mondo, e sono soprattutto 21. Donne e soprattutto ragazze. Perché sono i soggetti più deboli. E questo ci dice che fondamentalmente, anche se l'America non è l'Italia per tanti versi, in positivo e in negativo, viviamo immersi ancora in una cultura maschilista dove la donna è il soggetto debole. È la proprietà, anche lui le ha usate veramente come bambole di gomma, le è andate a cercarsele in giro e se le teneva lì al guinzaglio. C'è un dettaglio rilevatore, cioè, magari io sono un appassionato, ma questo non giustifica nessuna curiosità morbosa, leggendo parecchi thriller, parecchie storie di serial killer, tu scopri sempre che ci sono delle ferite intatte dentro di noi che poi alla fine scoppiano e portano ad ammazzare. Ma perché non lo fanno le donne? Perché non lo fanno le donne nei confronti degli uomini? Ci vorrebbe un po' di autocoscienza collettiva da parte degli uomini. Ma forse no? È anche una questione di forza fisica. Ma no, ecco, non è solo questione di forza fisica. Io non credo, Fabrizio, non credo che una donna abbia pensiero se avesse più forza di prendere tre ragazzi in giro e tenerseli lì al guinzaglio. L'uomo ha un istinto più animale, questo sì, indubbiamente l'uomo è molto più animale. Io a volte penso donna. Provocatoriamente, lo dico sapendo pure che ci sono tanti ascoltatori uomini, ma che mi seguono e sanno un po' come la penso, che a volte veramente mi vengono i dubbi sul cromosoma Y, come sostengono alcuni ricercatori scienziati, che si è rotta la gambetta della X femminile e si è rimasto un po' di qualche patologia. Comunque, su questa storia fermiamoci qui. No, volevo completare soltanto appunto l'altro dettaglio, è che c'era una fortissima sessodipendenza da parte di questo Castro, e quindi lì si accumulano delle ferite che, non curate, portate avanti, portano a queste storie mostruose. Tra l'altro, magari ora noi possiamo gioire perché queste ragazze sono state ma la vita è devastata, la vita non gliela ridà più nessuno, né nel passato né nel futuro. In certi casi la morte sarebbe addirittura una liberazione. Io mi chiedo se sia giusta la morte. Estrema. Mi chiedo se sia giusta quando si pensa alla pena di morte. No, allora noi, per non imbarbarirci, per questioni di civiltà, diciamo, non ci può essere la pena di morte. Però a me a volte mi prendono degli istinti. Io quantomeno lo vedrei in una cella 2 metri per 2 tutta la vita. Non sarà tenuto il guinzaglio, le catene, non sarà violentato tutti i giorni, bastonato, preso a calci nelle parti intime come ha fatto lui. Però almeno che se ne stia lì dentro, chiuso, a pensare a quello che ha fatto nella sua miserabile vita. Fabrizio, io passerei la parola a Vittoria da Milano all'800 24 0024. Vittoria. Sì, buongiorno signora, io ammiro molto Vittoria, la sua trasmissione. Ti ringrazio. Tranquilla, bella, gradevole, eccetera. Senta, io telefono a proposito Vittoria, di quel... posso chiederti un favore, Vittoria? Te lo posso chiedere? Sì. Non mi chiamare signora, perché mi viene l'uveite. Sì, ma in questo momento l'amnesia non mi ricordo il nome. Roberta. Ecco, Roberta. Scusi, ma no, prego. Proprio era un'amnesia. Lo so che non le piace. Non mi piace, no. Lo so. Non mi piace. Parlavo di quell'episodio che è successo stamattina a Milano, di quel tizio con che ha picconato 5 passanti. Questo succede. Ecco, a prescindere dal fatto che io lo metterei dentro e lo processerai in 2 giorni, certo, e lo lascerai in galera per tutto il resto della vita, perché quello lì, se no va in prescrizione i termini, ecco, che scadono, e come l'uomo che ha strangolato poi gli danno la ragazza di nuovo un ordine di espulsione, ce lo ritroviamo qui che fa qualche altra pazzia. Ecco, vorrei sapere perché italiani a differenza di noi italiani, in America hanno pescato questo boss della mafia, così l'hanno spedito, espulso, ed è arrivato in Sicilia e ha fatto fuori altri boss, ecco. E loro riescono in un paese così grande a prendere uno e a mandarlo dove devono mandarlo, e noi non siamo capaci. Questo qui che ha picconato era già espulso, non aveva il permesso di soggiorno, ma quanti ce ne sono in giro? Se poi mi dicono i buonisti che poverino aveva perso il lavoro, non sapeva dove andare. No, eccetera. nulla giustifica queste violenze di nessun tipo, perché tutti abbiamo i nostri traumi, piccoli, grandi, ognuno c'ha la sua storia personale, ci mancherebbe. Vittoria, ti ringrazio e giro la difficile domanda, prima poi di rivolgere tantissime altre, a Fabrizio D'Esposito. Dice Vittoria, come mai in un paese enorme come gli Stati Uniti riescono a procedere a certe cose? Sono tradizioni giuridiche diverse. Ora non voglio mettere delle pezze a colori o fare subito la parte anche del bianco e nero del Fatto Quotidiano che parla male di Berlusconi. In Italia c'è un problema di giustizia enorme, su questo non ci sono dubbi. I processi vengono celebrati in ritardo, c'è una domanda enorme di giustizia. Ma non sarà tutta colpa di Berlusconi, no? Però Fabrizio, no, il problema è che per 20 anni noi siamo stati abituati a parlare in termini di giustizia, riducendo il tutto soltanto ai problemi personali di Berlusconi. Questo è il punto vero. E allora, quando tu, per esempio, facciamo una differenza, in America ci sta il pubblico ministero che viene eletto, e ci sta poi anche, non c'è la possibilità di fare appello, che sono anche delle richieste che fanno in Italia quelli del centrodestra. Ora noi ci possiamo chiedere, alla luce di quello che è successo in questi vent'anni e alla luce di quello che succederà anche oggi a Brescia, dove avremo Berlusconi che parlerà dei suoi guai giudiziari, dirà che c'è un uso politico della giustizia, ecco, bla bla bla bla bla bla, cosa sarebbe successo in Italia se avessimo avuto un pubblico ministero alle dipendenze dell'esecutivo, dove si stabiliscono le priorità criminali, questo accade un po' in tutta Europa, no? Uno dei cavalli di battaglia dei cosiddetti garantisti è quello di dire la materia penale è così ampia e così discrezionale, stabiliamo un elenco di priorità, e in questo elenco di priorità può benissimo figurare quello che diceva la signora, e cioè perseguire il reato di clandestinità politica, che è un reato, anche se poi abbiamo oggi un ministro di colore, Cécile Kyenge, che ha detto già che lo vorrebbe abolire. Poi ne parliamo di questo, dello Ius Soli, che è stata una grossa polemica anche di questi giorni, con Grillo che ha detto ci verrebbe un referendum. Mi piacerebbe sentire anche le ascoltatrici e gli ascoltatori su questa cosa del diritto di cittadinanza per il fatto di essere nati in Italia. 800 24 00 24, scusami Fabrizio. No, noi ci culliamo da tempo di essere la patria del diritto. Indubbiamente ci sono enormi problemi che vanno affrontati, penso anche al sovraffollamento delle carceri, la certezza del diritto, quello che diceva prima la signora, è la certezza del diritto, cioè una persona, lasciamo stare se è clandestino e di colore, la follia non ha una etichetta addosso e basta, certo, può colpire. Certo. Abbiamo parlato di femminicidio prima, quindi sono tutti italiani quelli di cui si sono macchiati di questi reati mostruosi. Il punto vero è la certezza del diritto, e in Italia sono 20 anni che non si riesce a ragionare su queste riforme da fare, perché c'è un macigno grosso come una pietra che si chiama Silvio Berlusconi e che ci ha abituato a ragionare tutto sui suoi problemi quindi personali. Senti Fabrizio, tu prima hai fatto un'ampia disamina, no? Sì. Hai fatto un'ampia disamina dei fatti accaduti in questa settimana e che dobbiamo commentare oggi. Mentre ci riportano alle problematiche di Silvio Berlusconi, la morte di Andreotti, cioè Berlusconi ha detto io sono stato perseguitato come lui, l'elezione di Nitto Palma alla Commissione Giustizia, che è stata la nomina più controversa di questo ex guardasigilli berlusconiano, e poi la condanna di Mediaset. Quindi, come vedi, la è protagonista, per noi diventa sempre protagonista. Parlare di Berlusconi. Secondo te, molto brevemente, quindi Berlusconi non soffre di accanimento giudiziario in questi anni? No, Berlusconi appunto, ora i magistrati possono commettere errori, possono sicuramente valutare diversamente delle vicende da altri magistrati. Il punto vero è che lui, a prescindere da queste valutazioni, si reputa innocente. Io per il Fatto Quotidiano di oggi, ieri ho parlato e oggi ho pubblicato l'intervista con Maurizio Gaspari, vicepresidente del Senato, il quale mi ha detto chiaro e tondo, loro reputano Berlusconi innocente a prescindere. Loro pensano che ci sia una persecuzione giudiziaria da quando lui è sceso in politica, ma se noi andiamo a leggere la sentenza, che l'ho visto colpevole in appello per la seconda volta, quindi mercoledì scorso, lui era il garante di un sistema di frode fiscale dentro Mediaset. Ora la Cassazione dirà quale sarà l'esito finale di questa vicenda processuale, ma nel frattempo c'è un altro processo, c'è un'altra inchiesta per la compravendita di parlamentari, c'è poi il processo, quello là più infamante se vuoi, Ruby, è che lambisce anche la problematica delle donne in Italia, e cioè il processo Ruby, e cioè una certa concezione della donna che viene vista come velina e come oggetto o soggetto di piacere. Chiarissimo, per un Fabrizio. Vecchio di 77 anni. Fabrizio, sentiamo sempre l'800 24 00 24 perché arrivano centinaia di telefonate a Benedetta Acri lì in regia, la nostra centralinista Rosa. Irene da Bologna. Sì, buongiorno, chiedo scusa prima di tutto per questa voce da stalker telefonico, ma Irene, sei una stalker, voi stai ammettendo ha un suo quid la tua voce, mio marito non condivide. Comunque, senta, io reagivo semplicemente a quanto detto precedentemente, che poi è anche una vulgata che definisce la donna sesso debole, l'uomo sesso forte. Non è così, l'aspetto fisico non c'entra niente, una donna ha la stessa possibilità di sparare a un uomo, di buttargli addosso dell'acido, di accoltellarlo, di buttarlo giù da una finestra, certo. Semplicemente non lo fa, non Sono ha bisogno d'accordo. Di farlo per definire la propria individualità. Il problema è che gli uomini hanno grossi problemi e devono risolverli, la donna non è sesso debole, che sembra quasi che sia un po' colpa nostra e dovremmo rinforzarci un po'. Non è così. Irene, dimmi una cosa, e a parte appunto che ci sono anche le pistole che gli uomini usano spessissimo e non richiedono nessun atto di forza, e tuo marito come la pensa? Ne riflettete su questa cosa? Sì, riflettiamo su questa cosa. Come posso dire, mio marito è un uomo estremamente positivo, che però anche lui di fronte all'evidenza rimane sconcertato. Irene, ti ringrazio, sono assolutamente d'accordo con te. Grazie. 800 24 00 24. Tra poco avremo il collegamento con Marte, naturalmente sapete che è l'unico programma al mondo che ha questo collegamento, ma prima, sempre il numero verde, Viviana da Lodi. Ecco, io purtroppo devo correre, però dico la mia opinione. Perché stai facendo running? No, lo devo correre proprio. È un problema storico, antropologico secondo me. Bisogna ritornare indietro con la storia e vedere che susseguo ha avuto per arrivare a questa situazione così tragica. Stai parlando del femminicidio, della violenza? Certo, quello, e anche trovo che sia sbagliato mettere dentro in carcere, perché il carcere comunque queste persone, e non solo queste, vanno mantenute. Chi le mantiene con questo stato colabrodo? Loro sanno che sono impuniti e lo fanno, e poi sono delle belve, degli animali, animali con il rispetto per gli animali. Auguri a tutti e arrivederci. Grazie Viviana, e con questo intervento di Viviana ci fermiamo molto brevemente, abbiamo questa pausa, poi ritorniamo con Fabrizio Esposito con le vostre opinioni sui fatti della settimana all'800 24 00 24, con il collegamento con un altro pianeta, e anche mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, leggerò anche qualche commento sulla pagina Facebook di Non ci sono più la mezza stagione, dello Ius Soli richiesto, annunciato, forse un po' così imprudentemente, in modo un po' troppo affrettato, dalla ministra Chiang, forse è una cosa su cui bisogna riflettere con più calma. Grillo chiedeva il referendum, cioè sul diritto di cittadinanza che devono avere, secondo la ministra Chiang, tutti i bambini che nascono, quindi in automatico con la loro nascita, che nascono in Italia da genitori stranieri. Eccoci qua, riprendiamo allora da dove ci eravamo lasciati. Roberto Giordano sempre con voi, Fabrizio D'Esposito, giornalista del Fatto Quotidiano e l'opinionista estemporaneo di oggi, per commentare insieme a me, insieme a voi, tutti i fatti della settimana. Già ne abbiamo toccati diversi. Fabrizio, prima di andare sullo Ius Soli, su quale poi sentiremo anche le ascoltatrici e ascoltatori, quelli che vorranno intervenire, altrimenti sceglieranno un'altra notizia, che cosa ne pensi di questo annuncio della ministra Chiang, che insomma creato un po' di polemiche, e Grillo è uscito diciamo un po' allo scoperto sull'argomento dicendo sono contrario allo Ius Soli, non è che perché uno nasce in Italia da genitori stranieri automaticamente nascendo sul nostro suolo deve diventare italiano, ci vuole un referendum. Poi leggerò anche i commenti su Facebook, lunghissimi, tantissimi, qualcuno lo leggerò. Che ne pensi? Sì. No, solo per chiarire la risposta di un'ascoltatrice prima, anch'io sono convinto che la donna sia il vero sesso forte e non debole rispetto alla questione del femminicidio. Se ho detto prima questo forse non sono stato chiaro, volevo soltanto mettere in evidenza che l'uomo è portato a un istinto di sopraffazione, tutto qui. Detto questo, sì. Pronto? Sì, ti sento Fabrizio. Detto questo, sullo Ius Soli, io credo che Grillo abbia detto una grossa baggianata dal punto di vista del referendum, perché la proposta del ministro Chiang, o Chiang come dici tu, fa riferimento a quella che è stata una delle basi, dei pilastri, di quello che ricordiamo fra l'altro della grigia e incolore campagna elettorale di Bersani, anzi Bersani ha chiuso la campagna elettorale dicendo proprio, facendo appello allo Ius Soli. Ora, lo Ius Soli è, credo sia soltanto una cosa di sinistra, sia fare i conti con quello che è avvenuto negli ultimi decenni, cioè con un fenomeno forte di immigrazione che ha portato tantissime persone da fuori nel nostro paese. Noi che cosa intendiamo per Ius Soli? Il diritto cioè di chi nasce sul nostro territorio a dargli la cittadinanza. Grillo fa secondo me anche un errore di valutazione, come ha fatto anche Grasso, che ha detto un'altra baggianata, ha detto a quel punto Presidente tutte le puerpere verrebbero nel nostro paese a partorire. In ogni paese europeo lo Ius Soli si basa sul regime misto, c'è comunque un sistema di regole. Ius sanguinis e Ius Soli, cioè dipende, cioè, allora, sono un po' temperato. Il diritto di sangue e il diritto di suolo, cioè tu acquisti la cittadinanza per nascita oppure per il territorio, ma anche se l'acquisti tramite lo Ius Soli, non è mai in tutti i paesi europei, dalla Gran Bretagna alla Francia e così via, non c'è mai un'acquisizione diretta, c'è un minimo di regole, si parla di del cosiddetto regime misto, dove magari deve passare qualche anno, deve avere una residenza da 1-2 anni, sì. È ovvio, è ci tutto un... Pronto? Sì, sì, ti sento Fabrizio. È tutto un percorso da costruire, è la proposta di legge che ha fatto il ministro, l'aveva già fatta prima di essere ministro, si basa appunto su un sistema di regole che non consente da subito l'acquisizione della cittadinanza. Senti Fabrizio, siccome ci sono tantissime telefonate ancora, io volevo dare prima un pochino di spazio alla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, che è piena di commenti anche questa settimana, sullo Ius Soli. E Corrado dice: un paese civile non deve aver paura di accettare come proprio cittadino chiunque nasca sul proprio territorio. Lo Ius Sanguinis è un retaggio fascistoide. Monica dice: penso che comunque sarebbe importante almeno abbassare l'età per ottenere la cittadinanza. Ho conosciuto diversi figli di me. Sapete che in Italia bisogna raggiungere i 18 anni per ottenere la cittadinanza dopo che sei nato in Italia. Dice: conosco diversi figli di immigrati regolarmente iscritti alle scuole già con diploma che non avendo compiuto la maggiore età non hanno potuto iscriversi ai vari corsi regionali che avviano ad un lavoro perché non avevano i requisiti. Poi Carlo dice: Roberto, un proverbio toscano recita così: da Montelupo si vede la capraia, Dio li fa e poi li appaia. L'insetto e il fascista, dice, si sono appaiati nel più orribile concetto di leggi razziali di mussoliniana memoria. Dice: io democratico e uomo libero sono favorevole, scusate, a concedere la cittadinanza a tutti quelli che nascono in Italia. Luigi dice: proporrei il sistema che vige in UK, cioè in United Kingdom, in Gran Bretagna, dove si diventa, se non sbaglio, l'avevo preso l'appunto, ci vogliono, se ti sposi con un inglese 3 anni dopo hai la cittadinanza italiana, o si acquista la cittadinanza se almeno uno dei due genitori è inglese. Poi Paolo: io invece proporrei l'insetto il comunista di staliniana memoria, qui si pizzicano a vicenda gli ascoltatori. Danilo: il referendum è auspicabile perché è lo strumento principe della partecipazione democratica, i cittadini correttamente informati hanno il diritto di esprimersi su argomenti tanto importanti. Anche Massimo dice: referendum. Barbara: sono d'accordo con lo Ius Soli, dovremmo essere un paese civile capace di accogliere e di far rispettare le leggi. Anche Fabrizio per lo Ius Soli, così Elisa. Henry dice: pregherei tutti di leggere come prendere cittadinanza nelle altre nazioni, non è facilissimo, quindi adeguiamoci. Enrica: facciamo come la Svizzera, referendum a manetta. Interviene anche Don Severino, che poi dovremo sentire. Luigi: finalmente una cosa sensata detta da Grillo. Angelo: Grillo ha detto una cosa molto più saggia, cioè che dovrebbe essere l'Europa a decidere. Insomma, un sacco di commenti, ma direi prima di sentire Daniele dalla provincia di Brescia, Vincenzo da Roma, Barbara da Milano all'800240024, Pietro Lacorte è riuscito dalla parte tecnica a creare il collegamento satellitare con Marte. Riflessioni da Marte. Ascoltare questa settimana da quassù, da Marte, il pianeta Italia, perché ormai è chiaro si tratta proprio di un pianeta a sé stante, si è assistito a una funambolica operazione di fratellanza e di nostalgia. Ma sì, non è vero che i politici italiani soffrono di poltronismo, per cui i maligni parlano di Manuele Cencelli per dire che con i bilancini da orefice si sono accontentate per fare questa grande coalizione tutte le correnti di tutti i partiti, componendo così un mirabile puzzle che nemmeno il campione mondiale di puzzle sarebbe riuscito a creare. No, quella che è stata fatta è prima di tutto un'operazione di profonda fratellanza. Tutti insieme appassionatamente tra poltrone e sofà, e chi ha avuto avuto, chi ha dato, scordiamoci lo passato, simmi italiani paesà. Quindi si diceva fraternité avanti a tutto, che in italiano si dice pacificazione nazionale. E poi quanta nostalgia! Prima di tutto è volato via Andreotti, ma in compenso pare sia stata resuscitata la balena bianca, forse anche per la moratoria contro la caccia alle balene. Del resto è tornato anche il carosello, no? E poi è così bella e struggente la nostalgia. Tutto normale fra celeste nostalgia. Perché diciamolo, Il cambiamento, ivi inclusa la rottamazione, non è per forza progresso e quindi ecco alle presidenze delle commissioni di Camera e Senato Formigoni, Damiano, La Russa, Casini. Tutto normale fra di noi, cara celeste nostalgia. Insomma, una bella rimpatriata generale con i soliti noti e molto trasversale, senza escludere nessuno, tanto che questa corazzata di governo mi sembra l'arca di Noè. Però ci si sta fingendosi un po'. Ma sì, ci si sta, c'è posto per tutti, come una bella squadra. E allora tutti in ritiro in abbazia, ma non per prendere i voti, inteso in senso di voti monastici, no, per fare spogliatoio. Ve li immaginate tutti in braghette e calzettoni che si tirano saponette e asciugamani? Beh, però diciamolo, se si può fare questa unione, che ai più sino a qualche giorno fa poteva sembrare contro natura, vuoi che a questo punto l'Italia non sia matura per i matrimoni gay? Torniamo con i piedi per terra qui sulla terra per continuare a sentire le vostre telefonate all'800 24 00 24. C'è Daniele dalla provincia di Brescia. Sì, buongiorno. Se mi permette un commento sullo Ius Soli. Permetto. Secondo me c'è già una situazione strisciante in atto, perché quanti assegni familiari vengono pagati a figli di immigrati che lavorano regolarmente, ma i figli sono al loro paese li fanno venire qui le mogli per far nascere qui i figli, così hanno l'assistenza sanitaria, hanno tutte le cose gratis, perché giustamente noi italiani non siamo un popolo civile, però dopo vivono al loro paese. Comunque vabbè, a parte questo, io avevo chiamato per un'altra cosa. Sì. Per fare un commento su quel tipo lì di Cleveland che meriterebbe di essere incatenato, vivere incatenato e essere sodomizzato 24 ore su 24. Ma siccome siamo sempre un paese civile, questo non può succedere mai. Allora dovrebbero, la pena di morte è troppo poco, perché meriterebbe di essere messo in catene nei piombi a Venezia e mangiare pane e acqua e butta via la chiave. Vabbè, questo qui è il mio parere personale. Grazie Daniele, molto molto chiaro il tuo parere personale. E Roberto da Milano. Sì, stavi riflettendo. Sì, buonasera a te, buongiorno, buon pomeriggio. Non le dico signora o signorina perché sennò si arrabbia. Quindi come mi vuoi chiamare? Girl. Facciamo così. No, ti chiami Roberto, basta che ci metti una A finale. Va bene. Prego allora, Roberto. Sì. Niente, in nessun, praticamente soltanto in due o tre paesi del mondo esiste lo Ius Soli, in Canada, negli Stati Uniti e forse un altro che non mi ricordo. In tutti i paesi d'Europa è Ius Sanguinis. No, sono misti, come si diceva prima, anche per esempio in Gran Bretagna, sono un po' misti, temperati, non si arriva fino ai 18 anni come da noi in Italia, ma basta avere un genitore del posto, oppure se ti sposi dopo 3 anni dal matrimonio acquisisci la cittadinanza. È misto il sistema, Roberto, per lo più. Puoi diventare cittadino in Italia, diventi cittadino subito. In Svizzera addirittura tra permesso comunale, permesso cantonale e permesso della confederazione ci metti una 20 anni dopo aver fatto un esame trilingue italiano, francese, romancio e dopo aver fatto un esame di storia svizzera. Quindi è una roba, mi sembra un falso problema. E al di là di questo, quando uno ha 18 anni può scegliere. La Chiesa ha portato ad esempio Balotelli. Balotelli a 18 anni ha scelto. Mm. Poteva scegliere l'inglese, poteva scegliere l'italiano. Ha scelto l'italiano. E qual è il problema? Non vedo. Hanno gli stessi diritti che hanno gli italiani. No, si diceva che forse sono un po' troppi anni, 18 anni. Si potrebbe fare prima. Beh, allora quando c'era il servizio militare si poteva tirare indietro, andare a fare militare a 7 anni. Così si risparmiava tempo. Uno andava prima. È un discorso un po' di diverso, Roberto. Non lo so, mi sembra di quelle stupidate per mascherare altri problemi che attualmente non sono quelli dello Ius Soli, cioè dello Ius Sanguini, ma sono problemi fondamentalmente economici, di occupazioni e di finanza, punto. Questa qua mi sembra tutto fumo e niente arrosto. Roberto, il paragone insomma, mi sembrava di più azzardare. Probabilmente si può dire che lo Ius Soli magari non sarà la priorità in questo momento, per esempio anche la questione IMU, persino l'IMU. Chiedevo alle ascoltatrici e ascoltatori sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni se per loro era la priorità la questione affrontare IMU, e per lo più hanno detto no, dare ossigeno alle famiglie, alle imprese, l'occupazione, abbassare le tasse, insomma c'erano molti altri argomenti che ritenevano più importanti. Abbiamo gli aggiornamenti per chi viaggia, poi ci sarà Roberto da Milano, Barbara da Milano, tutte le altre ascoltatrici e ascoltatori all'800 24 0024 e naturalmente Fabrizio D'Esposito del Fatto Quotidiano. È cascato forse qualcuno? Dal telefono, ha fatto banzai. 800 24 0024. Prima di sentire Barbara, volevo chiederti, Fabrizio D'Esposito, l'assemblea PD, adesso Epifani, che è stato, dicevamo, eletto segretario traghettatore, dice il governo Letta può contare sul nostro appoggio. C'è però la senatrice Laura Puppato che guida i ribelli e ha intenzione di proporre delle maggioranze variabili. Ha detto non è che veniamo fuori da questo governo, però vogliamo stare anche sulle varie leggi con la possibilità di votarle con maggioranze variabili, diverse, una volta col Movimento 5 Stelle, una volta con SEL. Che ne pensi di tutta questa operazione PD? Guarda, io credo che nei 3 giorni che hanno portato dell'elezione del capo dello Stato sia caduto per la seconda volta il muro di Berlino, cioè c'è stata la morte tardiva del vecchio Partito Comunista. In quei 3 giorni il tempio è stato distrutto e adesso i vari big, i vari Epifani, i vari Bersani, lo stesso Letta stanno cercando di dare un minimo di speranza a un elettorato smarrito, arrabbiato. Si è parlato molto anche di queste sezioni, di questi circoli in questi giorni occupati, Occupy PD, che stanno tuttora davanti alla nuova fiera di Roma dove si tiene l'Assemblea Nazionale. La questione è molto semplice. Epifani è un traghettatore perché il PD in questa fase non ha voluto scegliere un segretario forte perché la paura era che potesse logorare il governo. Si è fatto nei giorni scorsi l'esempio di quando il PD nacque con Veltroni segretario e poco dopo si arrivò alla caduta del governo Prodi. Quindi serve un segretario che almeno non si ricandidi quando ci sarà il congresso in autunno, ho sentito già varie date, settembre-ottobre. E poi c'è la questione dell'identità, vedi, anche la questione dello Ius Soli è una questione di sinistra. Io prima non è che volevo dire a Grillo ha sbagliato a fare il referendum. Io credo che una forza politica che fa campagna elettorale anche sullo Ius Soli si caratterizza per essere una forza di sinistra, una forza che dice io non voglio scegliere, è chiaro che è demanda tutto al referendum, è chiaro che si denota come una forza politica debole, perché la politica con la P maiuscola, consentimi un po' di retorica, fa delle scelte. Se tu sei per lo Ius Soli sei di sinistra, se tu sei per lo Ius Sanguini sei di destra. Abbiamo sentito un ascoltatore prima che parlava del modello svizzero, che è il modello per cui per anni Bossi e il suo ideologo Miglio Buonanima hanno guardato, quindi è chiara la matrice culturale di chi parla e dice guardiamo alla Svizzera oppure aspettiamo che un ragazzo come Balotelli faccia 18 anni e poi scelga, e ci sono tanti meno fortunati di Balotelli che non guadagnano come lui e così via. Ma detto questo, la questione del PD che pone Laura Puppato, che è stata sindaco di un paese del Veneto, si è candidata alle primarie, ha una fortissima connotazione di sinistra e per un dialogo con i cosiddetti grillini, avrebbe voluto magari Rodotà Presidente della Repubblica, e è stata indicata a suo tempo, forse lo ricorderai, durante le fasi concitate dei due mesi che abbiamo vissuto sul tentativo Bersani di fare il governo di minoranza, è stata una delle cosiddette ambasciatrici col mondo di 5 Stelle per capire se si poteva trovare una via d'uscita. E il PD vive uno stato di confusione enorme, cioè, lo dico anche da elettore di sinistra, non ho paura a dire questo, è però la fase che si sta aprendo è quella di una completa rifondazione. Capiremo col tempo, da Epifani a questi documenti della Cuffato, alle maggioranze variabili è probabile che verranno. Fra l'altro risulta, l'abbiamo scritto in tanti, che uno dei problemi principali per cui Silvio Berlusconi, a parte i suoi guai giudiziari, domani può far cadere il governo, a parte i sondaggi che lo danno ormai di nuovo come prima coalizione Berlusconi, in Italia, sì. È la paura che il PD possa convergere con il Movimento 5 Stelle su alcune questioni che lo riguardano, a Fabrizio, partire da quella della cosiddetta ineleggibilità. Fabrizio, mi viene l'ansia, come sanno gli ascoltatrici e gli ascoltatori, perché abbiamo pochi minuti, c'è il nostro appuntamento con Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, che molto sinteticamente ci spiegherà questa storia di abbazia e di ognuno pagherà per sé, il tweet che ha scritto Letta in questi giorni in vista del ritiro. Molti hanno criticato abbazia scritto con una B sola e il sé senza accento. Sì, è stato molto criticato, come spesso succede quando personaggi pubblici fanno errori o apparenti errori, in questo caso veniali. Il primo non è un errore vero e proprio, perché abbazia ha una variante anche con una sola B, quindi semmai ha scelto Letta la forma più rara, ma non in sé sbagliata. Certo, avrebbe dovuto mettere l'accento sul sé, perché altrimenti non si distingue il pronome personale dalla congiunzione. Ma per concludere velocemente, insomma, tanto veniali sono questi errori che mai avremmo messo Letta tra i personaggi pubblici da condannare linguisticamente nel nostro libro, nel quale abbiamo raccolto errori ben più gravi, ben più notevoli, piuttosto che fatti da giornalisti, politici, conduttori, che non hanno niente a che fare con questi due errorucci nei confronti dei quali sono molto indulgente. Lo sento, molto indulgente. Grazie Valeria Della Valle. Ciao Valeria. Barbara da Milano, riesci in un titolo, perdonami, abbiamo veramente pochissimo tempo. Volevo solo dire al vostro esposito del Fatto Quotidiano che ha fatto riferimento al femminicidio. A parte che la violenza è violenza, a me non piace etichettarla né al maschile né al femminile. Beh, però chiaro che c'è un problema delle culturale. Grosse comunque proporzioni. Sì. Lui ha detto che il femminicidio è prevalentemente, se non ha detto addirittura la parola, solo fatto da italiani. Credo che sia stato un errore, spero. No, è misto, è misto in Italia. Perché di femminicidio in Italia fatto da comunità straniere ce n'è tanto. Io non dimentico Ine e le altre. Sì, sì, siamo d'accordo, Barbara. Il problema culturale che portano, c'è una deputata del PDL, la Santanché, che è stata sotto scorta tanti anni per difendere sul nostro territorio comunque le donne musulmane di altre comunità. Ricordiamolo. Ti ringrazio, perché... Barbara, ti ringrazio. Abbiamo proprio 60 secondi, Fabrizio D'Esposito, in tutto questo, quindi parlando di femminicidio, parlando del fatto di Cleveland, anche un po' della politica italiana, mi riallaccio a un appello di questi giorni del Museo di Londra, dove c'è il divano di Freud, del padre della psicanalisi. Lanciano un appello, facciamo una raccolta, perché servono per il restauro di questo divano dove centinaia di pazienti si distesero, raccontarono, circa 5.000 sterline devono raccogliere. Vuoi metterci un piccolo contributo tu? Magari il divano di Freud sarebbe l'essenziale, soprattutto nel nostro paese, per capire quello che sta capitando in questi giorni. Freud è essenziale, viva il divano di Freud e salviamo il divano di Freud. Salviamo il divano di Freud, con questo appello saluto Fabrizio D'Esposito da Roberta Giordano. Ciao Fabrizio, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.